Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dalle pagine del settimanale Domenica, legato al Sole 24 Ore in edicola oggi, Danilo Mainardi commenta un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, quello delle torture agli animali. Pochi giorni fa, appena fuori Genova, alcuni individui hanno legato un cane alle rotaie del treno per poi assistere all'orribile spettacolo del suo investimento. Fortunatamente, però, il convoglio si è fermato in tempo e così l'innocente bestiola se l'è cavata col solo spavento. È comunque finita sui giornali e ho potuto vederla. Un bastardino dall'aria mite, occhi grandi e tondi e orecchie ripiegate all'ingiù. I tipici segnali infantili, quelli che Lorenz dimostrò che a tutti noi provocano tenerezza. E quello di Genova non è un caso isolato, perché in Sicilia alcuni ragazzi hanno giocato a torturare e a impiccare un altro cane, un piccolo inerme Yorkshire. Come se non bastasse, quei ragazzini si sono poi scattati foto ricordo accanto al loro penzolante trofeo. E ho ancora in mente, come dimenticarlo, quell'altro cane che ancora recentemente venne gettato in mare da una scogliera, sempre per puro divertimento. Come si fa, mi chiedo, a essere così crudeli? E sì che noi esseri umani possediamo quei neuroni specchio, talora detti un po' imprudentemente, dell'empatia. Già, perché forse sarebbe stato meglio andarci un po' più cauti, considerandoli semplicemente come strutture che consentono una percezione partecipata ad emozioni e comportamenti altrui. E ciò, anche se una vera empatia è quasi sempre coinvolta nel complesso disegno sociale che a tale percezione consegue. Resta il fatto che in quegli squalli di individui che torturano i cani, l'empatia non solo non esiste, ma viene addirittura sostituita dal suo opposto. Godimento sadico in risposta a una sofferenza percepita. Ma parliamo dei cani ora. Chiaro che in animali così sociali e comunicativi leggere la sofferenza è facile. Fanno poi parte, sempre con l'avvenuta urbanizzazione, della famiglia umana, tant'è che spesso si è addirittura parlato di iscriverli nel nostro stato di famiglia. È inoltre noto che, soprattutto per le persone sole, i cani ben interpretino la parte dei sostituti di umanità. Questo è ormai il loro più importante e moderno mestiere. Ed è anche perciò che vanno forte i cani provvisti di segnali infantili, che sembrano, e un poco sono, perennemente cuccioli. Più che generici sostituti d'umanità, questi fanno la parte di un bambino che non c'è o che non c'è più. Ormai spesso, infatti, si sente ripetere questa asserzione, per taluni fastidiosa. Sono la mamma di Jack, di Pippo, di Diana e così via. Tutti cani figli, ovviamente. E non raramente si può addirittura scoprire, spostato su un canino figlio sostituto, il dolce rituale materno fatto di paroline un po' storpiate, il mammese, di baci e di carezze. E il bello è che il figlio cane, cucciolo o adulto che sia, queste coccole le percepisce. Assume una faccia beata, sta a pancia in su e offre una zampa. Oppure sventola la coda e comunque se la gode un mondo. Ecco allora che, per chi ha tendenze sadiche, i cani, proprio per queste loro caratteristiche, tanto più se magnificate dai segnali infantili, possono divenire oggetti privilegiati delle sue perverse intenzioni. E c'è dell'altro. Perché la crudeltà rivolta agli animali viene purtroppo punita poco e, come è noto, per di più raramente. Anche perciò questo sadismo low cost compare così frequentemente. Credo, a ogni modo, che il fenomeno della crudeltà gratuita verso gli animali sia assai allarmante, perché chi usa sostituti d'umanità può facilmente venir tentato di abbandonare questa già crudelissima via per qualcosa di, per lui, ancor più appetitoso. A ogni modo il problema, e ciò è la regola se c'è coinvolta la nostra specie, è come sempre totalmente culturale, o quasi. Sia per quanto riguarda i cani o in generale gli animali, da noi in genere considerati oggetti non meritevoli di un rispetto adeguato alla loro intelligenza e sensibilità, sia per il ben più specifico problema del sadismo, di norma non scaturisce per tare genetiche e né tantomeno per colpa dei neuroni specchio, semplici strumenti, seppur raffinati, del nostro saperci mettere in sintonia con gli altri, ma soprattutto per la qualità delle esperienze vissute, o meglio subite, nelle prime fasi della nostra vita. Sarebbe pertanto colpevole sottovalutazione non considerare con allarmata attenzione questi recenti, terribili casi. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Danilo Mainardi dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Nel suo tentativo di apertura verso i paesi islamici, Barack Obama deve necessariamente fingere di non vedere i soprusi commessi dagli integralisti nei confronti delle donne e più in generale verso i non musulmani. Esiste un collegamento intrigante tra quanto detto dal presidente Barack Obama a proposito del velo delle donne musulmane nel suo discorso del 4 giugno al Cairo e le polemiche che infuriano sui prigionieri di Guantanamo, di recente liberati e tornati a ingrossare le file dei talebani e di Al-Qaeda. Da quando l'ex vicepresidente Dick Cheney ha saputo sfruttare al meglio i titoli del New York Times del 21 maggio, ricorrendo alle statistiche del Dipartimento della Difesa per insinuare che uno su sette dei rilasciati di Guantanamo aveva fatto ritorno al terrorismo o alla militanza armata, è scoppiato un pandemonio nel tentativo di capire se le cose stanno effettivamente così e, nel caso affermativo, perché. Non potrebbe essere il caso, tanto per fare un esempio, che un innocente sottoposto al tritacarne di Guantanamo si sia trasformato in un fondamentalista e abbia deciso di arruolarsi nella Jihad per la prima volta. Quest'ultima spiegazione non vale per diversi recidivi che sono stati realmente identificati, dei quali conosciamo vita, morte e miracoli. Durante una mia visita a Guantanamo mi è stata consegnata una lista che conteneva solo 11 nomi, per la verità, di ex militanti talebani come Abdullah Mehsud, arrestato nel febbraio del 2002 e rilasciato nel marzo 2004, il quale in seguito ha preferito togliersi la vita piuttosto che arrendersi alle forze di sicurezza pakistane. Se costituisce un oltraggio alla giustizia incarcerare individui che potrebbero essere vittima di false identità o di vendetta per mano di altre fazioni, allora è un oltraggio alla giustizia anche il rilascio di criminali psicopatici, convinti di aver ricevuto ordine da Dio di gettare acido in faccia alle ragazzine che vogliono andare a scuola. Eppure, se pensiamo che sia probabile o possibile che un uomo possa trasformarsi in un simile mostro dopo aver vissuto l'esperienza di Guantanamo, allora vorrei azzardare una spiegazione. Non immaginavo mai di scoprire che in quel luogo le autorità hanno consentito agli elementi più fanatici di organizzare la giornata degli altri detenuti. Immaginate di essere un individuo laico, o semplicemente non estremista, che si è ritrovato impigliato nelle maglie del sistema per errore. Ebbene, anche voi sareste obbligati a pregare 5 volte al giorno, le guardie non possono interferire, tenere in cella una copia del Corano e consumare cibi preparati secondo le norme halal o della Sharia. Forse potreste fare richiesta di essere esonerato, ma in questo caso dubito che sareste ascoltato. Gli ufficiali responsabili erano talmente orgogliosi di sfoggiare la loro grande apertura mentale nei confronti dell'Islam che hanno fatto una faccia quasi offesa quando ho chiesto come potevano giustificare l'impiego dei soldi dei contribuenti per mettere in piedi un'istituzione dedicata alla fervida pratica della versione più fondamentalista di un'unica religione. Al lungo elenco dei motivi validi per chiudere Guantanamo aggiungiamo anche questo. È una madrassa, scuola islamica, sponsorizzata dallo Stato americano. La stessa insistenza, quasi masochistica, nel prendere l'estremo come norma, si ritrova nell'eloquente discorso di Obama nella capitale egiziana. Parte di quanto enunciato era dettato da informazioni inesatte, malgrado le migliori intenzioni. Oggi chiunque, per quanto piccolo il suo bagaglio culturale, sa benissimo che non esiste un luogo né un'entità che possa definirsi il mondo musulmano, perché esso consiste di molti luoghi e molte realtà. È precisamente l'obiettivo degli jihadisti ridurre il tutto sotto la medesima autorità nel progetto di imporre l'Islam come unica religione planetaria. Esaminiamo l'unico caso in cui il presidente ha sfiorato la più nota caratteristica del mondo islamico, la tendenza a vedere nelle donne dei cittadini di seconda classe. E lo ha fatto solo per dire che i paesi occidentali praticano la discriminazione contro le donne musulmane. E come viene imposta tale discriminazione? Limitando l'uso del velo o hijab, parola che Obama ha pronunciato Ajib, figuriamoci le risate se l'avesse detto George Bush. È stato un chiaro attacco alla legge francese che proibisce di indossare abiti o simboli religiosi nelle scuole statali. Ma alle donne che sono costrette a vestirsi secondo i precetti altrui, Obama non ha avuto nulla da dire, quasi che il loro unico diritto in questione fosse quello di obbedire a una regola che in realtà non si trova nemmeno nel Corano. Crede forse il nostro presidente che velo e burka siano indumenti che le donne scelgono liberamente per essere alla moda? Tale manifestazione di ingenuità è a dir poco sconcertante e non c'è nulla da meravigliarsi se tra il pubblico musulmano globale oggi le persone sbagliate sghignazzano alle nostre spalle, mentre a coloro che dovrebbero essere nostri amici e alleati non resta che piangere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Christopher Hitchens, Le parole di Obama sul velo, un favore agli integralisti islamici, dal Corriere della Sera del 10 giugno. Durante la sua visita in Italia, Gheddafi ha lanciato accuse pesanti agli Stati Uniti e ha ricordato agli italiani le loro colpe, dimostrando però di avere una memoria storica piuttosto selettiva. D'accordo alla pompa di benzina dalla parte del manico. Ed è un amico caro del cavaliere al quale in certe cose assomiglia. Aspetto da eterno giovane e maggiore considerazione per le amazzoni che per i partiti. Inoltre il vestito di Michael Jackson con cui è sceso dall'aereo l'altra mattina era semplicemente spettacolare. Per un po' se ne approfitta il Sor Gheddafi. Non che pensassimo che la recente svolta buonista lo avesse trasformato in un epigono di Gandhi, né che il suo amore per il palcoscenico potesse esimerlo dal cambiarsi d'abito 5 volte al giorno, accumulando ritardi sul programma come un accelerato Bolzano-Reggio Calabria. Ma, insomma, un briciolo di riconoscenza in più ce la saremmo aspettata, se non per il nostro pentimento, per l'assoluta mancanza di colonna vertebrale con cui abbiamo accolto le sue comparsate. È arrivato con la foto di un martire incollata sulla giacca, come un rimorso, e nessuno ha fiatato. Al Senato ha inneggiato a Piazzale Loreto e paragonato gli Stati Uniti di Reagan a Bin Laden. E lì almeno Frattini si è dissociato. Poi è andato alla Sapienza, dove non lasciarono parlare il Papa e invece a lui hanno permesso di dire, senza contraddittorio, che i libri di storia sono pieni di falsità e che un giorno anche noi, forse, conosceremo la democrazia. Ce ne ha fornito un assaggio affacciandosi dal balcone del Campidoglio, non troppo distante da quello di Mussolini, per proporre l'abolizione dei partiti e la loro sostituzione con il popolo, un simpatico signore che di nome fa Muammar. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Libertà di far quel che gli va, dalla Stampa del 12 giugno. Come prevedibile, alle recenti elezioni la sinistra radicale non è riuscita a superare lo sbarramento del 4%, ma incasserà comunque i rimborsi elettorali. Questi rancorosi dissipatori di voti della sinistra italiana puntavano, proprio come il Cavaliere, sull'implosione del Partito Democratico di Franceschini per incassare qualche vantaggio elettorale. Paolo Ferrero, Rifondazione, Nichi Vendola, Sinistra e Libertà, Grazia Francescato, Verdi, sono riusciti nella notevole impresa di buttare dalla finestra 2 milioni di voti, più o meno il 6%, e perdere per la seconda volta il quorum. La sinistra radicale era unita. Si è divisa per ragioni che nessun elettore di media cultura politica saprebbe riassumere. Forse solo uno psichiatra, e con 1 milione di parole a disposizione, saprebbe spiegarci quali sono le differenze tra i sogni politici di Vendola e gli incubi di Ferrero, che insieme sono riusciti a cancellare i Verdi. Impresa titanica in un'Europa dove il voto verde cresce ovunque, e in un'Italia devastata dalle massime incurie ambientali, dove prosperano i denari e i disastri delle ecomafie, dove Napoli e Palermo, sconciate dai rifiuti, diventano casi planetari di disastro, e dove il governo progetta centrali nucleari di vecchia fabbricazione francese, mentre tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti di Obama, si orienta verso le energie rinnovabili. Purtroppo questa sinistra autoreferenziale e rissosa incasserà i rimborsi elettorali, ai quali si accede quando si supera il 2%. Soldi per le sedi, per gli stipendi dei funzionari, per i piccoli privilegi dei molti leader che sopravviveranno generando altri danni futuri. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pino Corrias, La sinistra è scomparsa ma incasserà i rimborsi, dal numero 24 del settimanale Vanity Fair.